italiano. E dove vuoi andare? Dove vuoi andare, Brigido? Sì, biondo, buona domenica. Altrettanto a lì. Ma sei uscito oggi? Sì, a voi adesso sono uscito, a piedi adesso sono uscito. Sì, io sono andato adesso, mi manca lì. Adesso, fra un po', forse 5 e mezza, mangio, sì. Dopo mi preparo, forse le 9 e mezza, e poi vado a lavorare. Che cappa. E poi si va a lavorare. Purtroppo siamo nati per soffrire. Io te la appoggio. Io te la spingo, parola di gringo. Sono contento. Te lo immagini questo pomponio? È un magone pomponio, non lo sapete. Adesso è la prima cosa che mi stai dicendo. E anche magone è diventato. Boh, boh. Vero, Antonio? Sì. È sicuro. È con Cammulo. Sembra. Allora, boh. Non mi si che se ne frega, ragazzi. Ah, posso di fare la notte? Va lì a Predanietta, se ne carica una macchina, si apporta al posto di lavoro lì all'Iram, capitato non lo vede nessuno. All'Iram? Che fai che ubriaco? Oh, aspettalo, c'è un QRM allucinante la tre. Lui non è all'Iram, è a Trunco Reale a lavorare. Sì, ti ha uscito la Trunco Reale. Non mi dire che dove c'è la bandessa, no? Dove aveva preso fuoco. Vicino al carcere ha detto che... Ah, vicino al carcere. Cazzo, ce lo fa la fare se qualcuno di da lì evapora come l'altra volta, cazzo. Che se lo trova di fronte che è passeggiando. Non ci sono problemi, basta avere i coglioni sotto, non ce ne sono problemi. Possono passeggiare quanto vogliono. L'importante è che non entrano dentro. Non potevano metterlo da parte, più sicuro, più tranquillo. Proprio nei posti più strani, a tipo Elio, la buon'anima. E un attimo che mi hanno suonato. Sono rientrato, eh. Va bene, va bene, si sente. Scusa, tanto di tempo che c'è. E stamattina c'era freddo, sono uscito a piedi e c'era freddo. Sì, sono uscito anch'io a buttare la rondetta, verso le 2:30, c'era freddo lo stesso. Adesso ho segnato freddo, poi fra un paio di 2 o 3 giorni mi sembra c'è di nuovo alta pressione, caldo intorno ai 22 gradi, 23. E scoia, forse che si può fare, tanto non comandiamo noi, Antonio. Ah, quello già è vero. Oh, se tutto va bene siamo rovinati. Lo speciale completo. Esagerato. Emanuele è andato, se ne è. Va bene. bisogna accontentarsi, diceva quello. Ok. Perfetto, ma non c'è nessuno per quello, senti tu, però pare che siano andati in Core X. C'era Torino poi, evidentemente c'era senz'altro. Ah ok, perfetto. Bene, bene. La bella propagazione che c'è quella rete. È molto debole, stiamo scarrellando qua i canali, ma poca roba, magari aumenta più tardi, non lo so, può darsi pure. Vabbè, quello è vero. Chi è? Chi è? Uranio, dovrebbe essere. Allo sì, allo sì. L'ho sentito poco fa. È uscito. Una propagazione allucinante, c'è russi e americani. E dove? Qui 27. Ah, io c'ho lo squelcio, ho messo. Scusate, tenerissimo che se porti via. Ah, per quello che non lo dissenti. E allora, URM e la propagazione, ma giù di Cindy. Allora, ti racconto. Allora, già, 91, i nomi. Accennata del tango, avevo studiato. 92, nessuno. Che seguo su. Allora, gloria. C'è poca gente. Sì, infatti. Manuele è andato, se ne. Boh, penso di sì. Vabbè, là, io me ne torno al computer che sto facendo cose. Ci sentiamo, Antonio. Ok. Ci sentiamo. A dopo, al limite. Se entra qualcuno. Ciao, ciao, ciao. Ciao.